Sigla, come avrete inteso, ovviamente provvisoria, in attesa che i nostri tecnici la raffinino in programma questa sera. Destra e sinistra, il concetto di schiena buona, la speranza di non andare all'inferno e naturalmente che non ci mandiate voi, e infine gli applausi, giusto appunto direi il contrario. Ma non infine a sufficienza, prima di fare un appello. La settimana scorsa alcuni di voi ricorderanno in chiusura l'appello che doveva in qualche maniera connotare di novità la trasmissione di quest'anno, l'apertura della rubrica Caccia Vostra. Benissimo, questo appello è stato, ha avuto un successo così clamoroso che in tutta la settimana abbiamo atteso invano che una sola delle cassette da voi registrate, gentilmente inviateci per una trasmissione cogestita, diciamo così, arrivasse e pervenisse alla sede della RAI, di Radio Popolare. Magari la sede RAI ce ne sono arrivate. Benissimo, non è arrivata nessuna, la rubrica ovviamente è in attesa di essere colmata con la vostra collaborazione, la rubrica Caccia Vostra rimane pertanto come nostra speranza per la settimana prossima. Ricordatevelo, una cassetta, tre minuti, una vostra caccia ben riuscita. L'aspettiamo.